fatto. Già fatto? Pic Indolor, la siringa con ago indolore che si usa una sola volta. Leggere attentamente le avvertenze. Pic Indolor, la siringa, niente male. Meglio tardi che mai. Ho perso anche il conto delle puntate. Che puntate siamo arrivate? Forse la 18ª. Oh, siamo maggiorenni. Sì. Siamo maggiorenni. Ritardo di quasi 20 minuti perché stasera, a quanto pare, a Firenze c'è il delirio totale. Si sospetta, facciamo anche un po' di informazione, fuga di gas in via Sestese. Pare. In realtà, molto probabilmente, è la primavera. Questo poi blocca tutte le arterie, si sa. Anche le nostre coronarie. La mia, soprattutto. Allora, oddio. Ci risiamo e giochiamo un po' con i volumi dei microfoni. Ci sentite bene? Se ci sentite male, facciamo schifo, scrivetelo a posta wombat@insiberia.net. Tanto non lo leggiamo. Accademia della Brusca, maggiorenni da oggi e... Quindi siamo più responsabili. Esatto. E possiamo tornare all'ora che vogliamo. Esatto. Per questo abbiamo iniziato più tardi. Esatto, scusate, il quarto d'ora accademico che ovviamente si è prolungato anche di altri 5 minuti. Speriamo quelli che... Quelli ce li siamo rubati. Sì, per prendere l'abbeveraggio, per trovare anche, insomma, come dire, il coraggio di raccontarvi l'argomento di stasera. Io inizio allora con i contatti, mail, posta wombat@insiberia.net, Facebook, Twitter, Facebook, sono sempre le solite cose, Radio Wombat Firenze, non cambia niente, il sito probabilmente se ci state ascoltando l'avete già scovato, ma io ve lo dico lo stesso, ecco. wombat.noblogs.org, sito nel quale potete vedere tutte le nostre fantastiche trasmissioni, le immaginine, scaricare i podcast, ascoltarci in streaming, scaricare wallpapers di tutti i loghi bellissimi che ci sono stati inviati e gli eventi, la news qual è? E che sabato al Next Emerson faremo una pericena, dagli, cioè un aperitivo mangereccio, non mi piace la parola pericena, mi fa schifo. Ma l'hai detta, è un programma di linguistica. Guarda, non la sopporto, infatti no, vabbè. È un aperitivo mangereccio, l'aperitivo del Wombat, ci troverete dalle 19 al Next Emerson, via di Bellagio. Ci troverete lì a mettere la musica più bella dei vostri DJ preferiti, nonché si mangerà qualcosa di buono, di buono, perché i Wombat sono dei cuochi strepitosi. E poi da domenica cacca cubetti per tutti, e ci saranno un po' di sorprese nella giornata di sabato, interventi, cose, ricchi premi e cotillon, tanto per dire un'altra cosa. Soprattutto cotillon, e quindi vi aspettiamo numerosi, così facciamo anche un po' di radio tutti assieme. Stupendo. E ci potete riconoscere, perché se siete già venuti in polveriera. Ma oltretutto, questa settimana, sì, Radio Wombat ha compiuto 6 mesi. Oh, che carino. Il Wombat cresce, ha iniziato a gattonare. 6 mesi forse. Quanti giorni sono più o meno? 1000. Sciocchino. Perché ci stavi per cascare? Sì, ovviamente la mia corteccia cerebrale si era già attivata a fare i calcoli veloci matematici. Festeggiamo? Eh sì, a questo punto grande festa. Grande festa, ragazzi. L'argomento lo introduciamo più tardi. Ve lo snoccioliamo dopo, sì, meglio, sì, meglio. Grande festa. Senti che roba! Censurato su una storia va a puttane, perdonateci. Questa è dedicata all'uomo. Solo che andavamo via di schiena, incontro a chi insegneremo quello che noi due imparammo insieme. Non capire mai cos'è, se c'è stato per davvero quell'attimo di eterno che non c'è. 1000 giorni di te e di me. Ti presento, vecchio amico. prego, basta. Scusate, basta. Abbiamo esagerato. Basta. Lo sappiamo, ci siamo rese conto di aver esagerato. Vi giuriamo ci che siamo non abbiamo distratte nemmeno... un attimo. Esatto, non abbiamo neanche cantato. Giuriamo, noi non abbiamo cantato neanche vero, la nostra fetta. Confermo, è tutto vero. Ecco. Allora, bene. Visto che stasera dobbiamo andare molto veloci, dobbiamo condensare tutto, facciamo sì. L'intro. Qui ti voglio. Posso farlo io lì? Sì. Solo l'intro, poi ti lascio sì. Tutto no, l'argomento. No, sì, sì. No, no, ma io leggo proprio da scaletta. Che ne dici? Didascalica. Per orientarsi meglio. Parliamo di fonemi, gli allofoni, le varianti libere e le regole fonotattiche della lingua italiana. E qui c'è faccia con bacchetta e occhio, perfido occhio sorriso pallato. E occhio pallato. Parliamo quindi delle combinazioni fra vocali e consonanti che formano le parole. Esatto, abbiamo pensato di fare anche una piccola parte sulla fonologia, proprio sulla fonetica e sui luoghi di articolazione, insomma, però abbiamo deciso che... Iniziamo così, con calma. Esatto, dopo aver festeggiato il Wombat, stasera fonemi, allofoni, varianti libere e regole fonotattiche. Wow, ma che cos'è sto fono? Fono scritto F-O-N-O, non ci confondiamo. L'iPhone. È un suono linguistico, già qua partiamo malissimo, sì. Ovvero un suono che, essendo suono, può essere vocale o consonantico. Qual è la differenza tra vocale e consonantico? Che differiscono, sono due suoni che differiscono per il modo di articolazione, cioè le vocali vengono prodotte tramite un meccanismo di vibrazione della laringe. Wow. A, E, I, O, U, provate anche wow. Gli armonici. Wow. Mentre le consonanti tramite il diaframma, con restringimento del canale fonatorio del tratto orale. Sentite, voi rilasciate piccoli sbalzetti d'aria che vengono occlusi generalmente dalla struttura del nostro cavo orale. E a ogni fono, ovviamente, quindi a ogni capacità di articolare un suono che noi abbiamo, la fonetica ha assegnato un determinato simbolo appunto per conferire, diciamo, una capacità di lettura, no? Nel senso, noi un fono lo possiamo emettere, un suono lo emettiamo e quindi lo sappiamo, se siamo andati a scuola, anche scrivere. E, sono però, attenzione, simboli che nella linguistica vengono adottati, generalmente si chiamano trascrizioni IPA, quindi International Phonetic Alphabet, che è ovviamente diverso dall'alfabeto, dall'ortografia tradizionale, perché appunto sono proposte di trascrizione fonetica che racchiudono non solo il segno grafico, ma all'interno della loro raffigurazione anche il suono. E sono quelle cosettine strane che vedete nel vocabolario quando andate a leggere il lemma. Ma sì, io lo faccio sempre. Anch'io, mi piace tanto, mi ci farei tutti i tatuaggini così. Proprio fuori di testa. Senti, andiamo avanti, per favore. Quindi, il fono ce l'abbiamo, l'iPhone. E prima di tutto dobbiamo parlare, cioè dopo aver fatto questa intro generale su che cos'è un fono, parliamo delle consonanti e delle vocali, cioè e i foni. E come si dividono poi, con le classiche suddivisioni che sentiamo dire sempre, no? Nasali, esatto. Bla bla bla. Cioè le macro aree, esatto. Che riguardano appunto i luoghi di articolazione, cioè in base alla posizione che il nostro canale fonatorio, la nostra bocca, lingua e denti assumono. Buongiorno. E ci risiamo. Buongiorno. Allora, in base al luogo di articolazione noi abbiamo ovviamente un fonema differente. Partiamo dalle consonanti perché sono quelli più numerosi. E... Tu spieghi, io faccio la cavia e produco i suoni, eccetto per le vocali perché poi ci sono dei problemi regionali che non mi permettono di essere perfetta. Anch'io non posso. Oddio, no, forse... Sì, tu sì. Io non potrò mai dire la fricativa alveolare per bene, per esempio. Ma come noi ci divertiamo. Che bello. Allora, partiamo con quelle più generalmente conosciute e anche più facili dal punto di vista etimologico. Le nasali, bilabiale, labio dentale. In italiano questo suono non esiste. È praticamente uguale. Dentale o alveolare. Post-alveolare non esiste. Qui no, non ce la possiamo fare. Non esiste proprio, è vuoto. Nella griglia c'è un vuoto, ve lo dico. Palatale. Che sì, è una lingua appoggiata sul palato. E lavelare. Niente. C'è una smorfia, niente. È una gn, ma non c'è la G. Esatto. Mettiamola così. Sì, poi più o meno sì. Divertitevi a fare con noi e cambiando luogo di articolazione tra occlusione delle labbra, e labbra e denti, e denti alveoli, denti alveoli, e il palato, e il vello palatino, la velare, che in italiano in realtà di velare ne abbiamo veramente poche. Non siamo una lingua, non siamo i magiari, quindi insomma. Poi abbiamo le occlusive. Che allora, sono? Occlusive. Praticamente noi mettiamo un flusso di aria, generalmente se non la consonante, con il diaframma, e quindi cosa facciamo? Occludiamo con P, B, P, B, quindi sorde sonore, perché poi c'è anche questa bellissima differenza. Poi, sì, poi si vede magari. Quando facciamo un'occlusione sorda, bilabiale, esce la P. P. Quando invece la facciamo sonora, quindi facciamo vibrare di più le labbra, esce una B. B. Poi abbiamo labio dentali, niente. Dentali alveolari, cioè sono le T. E T. D. D. Quindi T, T perché la lingua D. batte sui denti, T. E D, D perché struscia D dietro. Nella D di dado o di domodossola, visto che esiste, c'è maggiore, esatto, vibrazione nella gola. Dovete farle con una mano nel collo, nella gola, e ascoltare la differenza T, D. La D vibra di più, molto di è più, vero, coinvolge sì, di più tutto il collo. Chiamiamolo collo perché la mano è sul collo, senza poi subentrare nei dettagli, esatto, dell'apparato fonoarticolatorio, perché forse una nostra super, super, super, super collaboratrice ci farà una super lezioncina. Canteremo però tutti ancora insieme, non è sicuro, diretta. Vediamo. Se i soprani della Crusca. Sì, sì, sì, a quel punto poi scatta anche un pezzo cantato da noi, sicuramente. E poi occlusive velari. Le velari. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. La k. G. K. G. Abbiamo quasi finito, perché abbiamo le affricate. Ai, nasali, occlusive, affricate, dentali, alveolari e post-alveolari, cioè tutto a livello della dentatura. Z. Z. Z. Z. Come quando siete stizziti. Z. Z. Z. E post-alveolari, quindi più sonore. Z. Z. Z. Z. Z. È difficilissimo quando, cioè, lo devi pronunciare, speri che sia chiaro, è più casino. Sì. Z. Z. Poi. E poi le fricative, bellissime. F. V. Quelle proprio che hanno. V. Esatto, queste che sono le F. V. Allora, FV sono le labiodentali fricative e nella posizione praticamente dall'esterno appaiono uguali. L'unica differenza è, come prima, mettete la mano nella gola, F di farfalla, V di vaso. I grandi classici, farfalla e vaso, farfalla elementari, vaso. FV. Nella V sentiamo vibrare la gola. Questa è la differenza in realtà interna. Per l'esterno visivamente è la stessa cosa. Non c'è nessuna. Così come per S, Z. S, Z. Stessa cosa. Fate la prova con la mano nella gola. S, S, Z. Z. Quindi dentali e alveolari. Prima dentali e alveolari entrambe, ma la Z fa vibrare la gola, mentre la S no. Sono soprattutto queste due coppie, F, V, S, Z, quelle che dall'esterno non si, cioè non, dall'esterno non sembrano uguali. E l'unico modo per capirne veramente la differenza è quella di mettere la mano nella gola. La stessa cosa accade anche con la M e la N. La N vibra il naso, la M vibra le guance, vibra un po' la gola. Esatto, stanno demolendo la regia. Sì. Ecco, quindi fonemi consonantici che si distinguono in base ai luoghi di articolazione, ve li abbiamo detti. Ah, ci sarebbero anche la grande vibrante che fai la salti. Che è alveolare. Sì, alveolare. Laterale, la l. E la prossimante. Sì, questa però come sì, le... Io ho trovato questi la I, appunti lunga, la, la do, la v, che sarebbero semivocali o semiconsonanti. Sì, infatti sono una cosa un po' a parte, una cosa sì, del genere, quindi avete capito. Potete quindi divertirvi con noi a fare tutte le fate i giochini, f v s z e anche k c. K, la K ha come uno stacco proprio all'altezza dell'osso ioide. Mi stavo strangolando. Manovra. Perché in tutto questo anch'io ho la mano nella gola e frugo la tiroide. Non ho più tiroide. K, C. Quindi io vi farei sentire un pezzetto. Sì, sì, a questo punto sì. Prima di parlarvi delle vocali, che c'è molto meno da dire, ma un pezzo bellissimo da ascoltare. Sicuramente. E su questo fate attenzione alle occlusive bilabiali che ci sono. Sentite che meraviglia. Passiamo dalle stalle alle stelle. Sei un demone. Senza nulla volerne al povero Baglioni. Insomma. Freude wird das sein, ich in meine Bilder sein, wenn die Götter uns bedenken, wenn die Götter uns bedenken, promesso, abbiamo messo il pezzone, poteva anche essere a chiusura, ma insomma il pezzone era quello di Baglioni. Sì, ah sì, no no, nel caso potevamo metterlo a chiusura, fosse questo, no assolutamente, ma stiamo scherzando, stavi... questa è bazzeccole, proprio roba veramente che bello, che bello. Papageno e Papagena, hai capito? Dal... Fuga del gatto, Zauberflote. Fuga del gatto, fuga. Cosa credi? Infatti ha fatto fuga del gatto. Ah, quindi, dopo avervi fatto il primo pippone sulle consonanti, parliamo delle vocali e soprattutto, ovviamente le vocali le sappiamo, A, E, I, O, U. Y. Quella in realtà sarebbe no, una lo sai che il mio unico pensiero va al trenino di Capodanno. Forse ho qualcosa per te, ma vediamo, se fai la brava, soltanto se sei. Tutte le consonanti tranne la Z, la Y e la W, quindi la U, possono essere fonologicamente geminate all'interno di una parola tra due vocali, cioè le doppie. Okay. Apparato, pappa, gatto, per esempio fatto. Queste geminate nella trascrizione IPA le vedete, quindi prendete il vocabolario a fianco del lemma, vedete i due puntini prima della consonante che generalmente è raddoppiata, che significa che è geminata. Questo. Okay. Sulla dopo, prima dopo, della scusa, vocale. Prima sì, della sì, vocale, prima della vocale. E, le consonanti invece la gli di aglio sono sempre geminate all'interno di parola tra le vocali, ovvero nella grafia tipo ascia non è che è scritto ascia, però noi leggiamo la parola come se fosse una geminata, perché questi nessi consonantici tra due vocali si leggono così, ascia, aglio, siamo anche orario di cena quindi. Poi l'opposizione invece tra i diversi luoghi di articolazione delle consonanti nasali, quindi m e n, è neutralizzata in contesto preconsonantico, ovvero le nasali assimilano il luogo di articolazione della consonante successiva, tipo infatti, anca. Anca, infatti, ancora. Ancora, sì, ancora. Cambiano lievemente la posizione. Esatto. E poi, vabbè, ce ne sarebbe un'altra a dire, ma è lunga, ma lo diciamo ugualmente. Tutto questo è interessante perché dal punto di vista della preparazione neurolinguistica siamo velocissimi nel compiere queste variazioni, questi abbinamenti, questi cambiamenti, lo siamo così tanto che è difficile anche poi studiarli, metterli su carta. Davvero. Perché il nostro cervello lo fa in maniera automatica, è un vero e proprio automatismo. Non è addirittura la cosa affascinante, ora sembra una cosa ovvia, ma in realtà non lo è poi così tanto. La cosa più affascinante è capire come il nostro cervello riesca ad adattare una consonante X in un determinato momento della parola ed essere già predisposto a angolare, piegare, articolare la lingua e tutta la bocca e tutto l'apparato fonoarticolatorio per la consonante o vocale successiva senza che questo abbia alcuna preparazione. Esatto. Cioè è una delle parti, per l'appunto, che poi rende l'acquisizione del linguaggio una delle cose più affascinanti che si può studiare dell'essere umano, proprio perché tutte queste modifiche scattano in automatico, noi non sappiamo assolutamente cosa sta succedendo, perché queste sono cose che se ti va bene le scopri a 30 anni, quindi non hai assolutamente questo tipo di informazioni quando impari a parlare, ma i vari cambiamenti, i vari registri che deve adottare l'articolazione nel parlato sono complicatissimi, ma anche affascinanti, ora magari dal mio punto di vista sono affascinanti, ma è comunque un gran segreto come si possa adattare a ogni vocale, a ogni consonante la successiva in un millesimo, forse meno di un millesimo di secondo. È un fenomeno agglutinante questo. Sì, infatti. Sì, che noi siamo appunto in grado di dare una valenza a ogni fonema in base alla composizione delle parole. Ilenia l'ha detto benissimo, la Nenia, con questo bellissimo, questa certo, bellissima descrizione proprio. Io ormai parlo solo faccio solo descrizioni bellissime dopo la mia esperienza di storia dell'arte di ieri. Lo sai, ormai non dico più parolacce, parlo solo di cose belle. D'altronde. Ma anche così. La linguistica è un'arte, nel senso, ovviamente. Disciplina, è anche grande rigore, ma al tempo stesso grandissime soddisfazioni, perché riuscire a rendere tutto, in realtà la linguistica serve a rendere più facile, più semplice la comprensione e l'acquisizione di una lingua, perché dà una spiegazione a quei fenomeni che noi siamo sempre abituati a sentire, a riprodurre, oppure addirittura a studiare in maniera molto bacchettona a scuola. Ma se apriamo un libro di linguistica, in particolar modo di linguistica generativa, con cui vi stiamo spaccando ormai i timpani, le tempie e forse anche qualcos'altro da ormai 6 mesi, vi renderete conto però che effettivamente il mondo linguistico è veramente eccezionale, anche perché è soltanto nostro, degli esseri umani, forse l'unica bella capacità che ci è rimasta. Detto ciò, andiamo avanti. Andiamo avanti con la cosa divertente: se sarete bravi e sentirete quest'altro pippone fino alla fine, sarete ricompensati con una bella canzone. Ma veramente bella. Ah. Ci stava, citando l'amico Fantozzi, una cagata pazzesca. Ecco. Dovremmo inserire anche lui. Sì, sì, ho già tutto pronto per le prossime, Pensate, mi sono fatta sfuggire solo quella di stasera. Il sistema vocalico della lingua italiana, standard, quindi non quella con le varianti dialettali regionali, ma quella standard, comprende non 5 vocali. Voi vi ricordate la canzoncina tipo l'elementare di A, E, O, U, sono le 5 vocali? E in realtà sono 7 i fonemi, perché si aggiungono anche 2 fenomeni... quasi vocalici, quasi consonantici, che sono appunto la I e la U. Sono questi fenomeni particolari. Le nostre vocali si distinguono in alte, medio-alte, medio-basse e basse. Abbiamo la I e la U, che sono 2 vocali alte. I perché viene è un suono che viene articolato con la parte anteriore della bocca. Se ci fate caso, I, quindi stendiamo le labbra e ci facciamo in avanti. La U, invece, prevede la chiusura a culo di gallina, sì, a selfie della bocca, e quindi il suono esce in questa maniera, quindi molto più racchiuso, a differenza della I o della A, che è una vocale bassa centrale, perché viene articolata nella parte mediana del tratto fonatorio. Sì, usa la parte inferiore, esatto. Le fa fare un po' da conca per l'uscita dell'aria, detto in maniera molto vocale, vabbè. Il canale fonoarticolatorio. Oh, sì. E poi abbiamo le medio-alte, la E e la O. Le medio-basse invece sono la E e la O. Quindi qui abbiamo una variante semplicemente... Non mi esprimo. La E, la O, Nenia, e Nenia. Non mi esprimo. È di Castetto, quindi non si esprime. No. Quindi medio-alte e O, medio-basse e O. Basta. Ok, mi piace. Ovviamente la differenza tra medio-alte e medio-basse si accentua quando le vocali sono poste in sillaba accentata aperta, cioè non seguite da una consonante appartenente alla stessa sillaba, tipo sciame. E, secondo alcuni linguisti, le vocali in sillaba accentata chiusa sarebbero lunghe. Questo però è un fenomeno che non viene segnalato nelle trascrizioni. Al nord, invece, dove i dialetti non prevedono una geminazione, quindi non prevedono le cosiddette doppie, che sono tipiche, se ci pensate, del dialetto soprattutto centro-italico, a Roma lo dicono, le vocali vengono pronunciate spesso tutte uguali senza e la differenza di lunghezza è minima. Se invece voi pensate al brianzolo, al bergamasco, vedete che la vocale è lunga. Prende una buona parte del nostro tempo. Praticamente la vocale non c'è. Che bello. Ieri si parlava di Max Ernst. È ancora difficoltà a dirlo dopo che Giova l'ha fatto comparire come un foggiano. Un fuggeno, Max Ernst, Max morire Ernst, quello, da ridere. Quello dell'incubus, del cavallo, del sogno della fanciulla. Sì. Ne parlavamo ieri sera anche noi, senza aver sentito la trasmissione. Fenomeni paranormali all'Accademia della Crusca che vengono. Sì, soprattutto della Crusca. Vabbè, sono un attimo. È telepatia. Ma alla Crusca. Alla ci Crusca. Fai ascoltare qualcosa di divertente. Sì, alla Crusca, questa cosa loro. Se la sognano. Se la sognano. Senti un po'. Yeah. trenini a non finire. D'altronde ve l'avevamo detto, era una cosa promessa, abbiamo parlato di vocali A, E, I, O, U, Y, quindi non poteva. Io me la sono cercata. Poi abbiamo finito in realtà con queste canzoncine. Beh, però abbiamo tagliato il pezzo, quindi... Si trovava set questo medley di tutti i carnevali, buone. Capodanni del mondo, sì. Trenini, era... E grandi sbronze collettive. Però di quelle tipo prese con non so... Sì, con le bollicine loffie, o con la vodka al melone, bravo. Wow. Sì. Con il Baileys, con le cose lì. Oh mamma, e le patatine al formaggio magari. Che schifo. Va bene, va bene, va bene, va bene. Mi sto per sentire male, scusa. Sì, ti prego, parlaci dell'accento immobile. Qual più mal... qua, va di là e qua va di là. In italiano l'accento è mobile, ovvero le parole sono divise in quattro gruppi a seconda della sillaba su cui l'accento cade. Siamo praticamente come gli spagnoli. Abbiamo, mi sembra, la stessa identica divisione in sillabe, perché d'altronde siamo due lingue molto vicine. Anzi no, loro hanno solo stronche, piane e sdrucciole, invece noi abbiamo anche le bisdrucciole. Ah, giusto. Che io non le considero è mai. È vero, ma no, infatti, guarda, ora che le vedo scritte nella scalettina, ricordo. Cosa interessante, le prime, che sono, penso, quelle più diffuse, non sono proprio più diffuse, ma ce ne sono molte, sono tipiche dell'italiano, sono le sillabe tronche, ovvero l'accento sull'ultima sillaba, le parole tronche, scusate, con accento sull'ultima sillaba, che testimoniano una derivazione storica importante, perché le parole tronche generalmente derivano dalla terza declinazione latina, cioè le parole che venivano di solito dall'accusativo singolare. Quello che dicevi la volta scorsa, se non ero giusto, sì. Sì, sì, sì. Okay. Avevo fatto un po'. Sì. Tipo la parola pietà deriva da pietas, il cui accusativo è pietatem, decade il caso, quindi tem, em, più anche la consonante che anticipa il caso, rimane pietà, diventa pietà. E anche poi le parole che sono comunque di indiscutibile origine italiana, tronche, sono anche i monosillabi, ah, giusto, per esempio. Sì. Oppure le parole bisillabi, metà, già, G-A, metà. Mm. Poi abbiamo le parole piane, cioè accento sulla penultima sillaba. E la maggior parte delle parole italiane, così tipo andare, farina, coscienza. E in latino le parole tronche erano molte poche, mentre le piane erano di più. Per questo, per questa ragione, in italiano si sono diffuse maggiormente. Sono più diffuse, ok. Esatto. E infatti, sì, no, intanto aggiungi sdrucciole, bisdrucciole. Le sdrucciole, mi viene in mente Elio, scusate, non riesco a non ridere. Sdrucciole, l'accento sulla terz'ultima sillaba. Limite, asparagi, mia nonna ha del 30, fa 87 anni, non ha ancora imparato a dire asparagi, continua a dire asparagi. Oh, che bello. Asparagi, anche molti sordi la fanno questa cosa, a centimetri, asparagi, che bello. E botola, c'è anche la parola botola. E poi le bisdrucciole, accento addirittura sulla quart'ultima sillaba, qua si inizia ad andare su parole che hanno la lunghezza notevole. Sì, infatti. Tipo dimenticatelo, anzi no, dimenticalo, trisdrucciola. Fabbricamicelo. Ok. Fabbricamicelo, sì. Se ce la fai, quadrisdrucciola. Dimenticalo invece bisdrucciola. E basta. E queste qui, allora, la predominanza di un tipo di accento, per esempio nell'italiano la piana, e la differenza di sintonizzazione che fa il bambino per riconoscere di quale lingua, in quale lingua è esposto. Quindi se prevalentemente sente l'accento piano, si sintonizza in quella tipologia fonetica e da lì poi sviluppa la competenza di elaborare le sillabe. Per esempio, capito. Riconosce, se un bambino che cresce in un contesto bilingue riconosce l'inglese e l'italiano proprio dalla differenza di questo tipo di caduta di accento. Ottimo, avete sentito l'Ilenia, quante cose sa la nostra Nenia, ne sa tantissime. E intermezziamo con un pezzetto... ovviamente un po' meno stupido. per parlare appunto di parole che sono... quali sono queste qua, di questa canzone? Sono le tronche? Adesso la sentite. No, io non vedevo proprio. Il problema è a monte. Prima ancora di riconoscere. Oggi qui, domani là, io vado vivo così, senza freni vado vivo così, yeah. Casa qui, oh io non ho, ma 100 case ho. Oggi qui, domani dove sarò? Ecco che tu, ecco che mi hai preso tutta per te. E fra un po' io non respirerò più, oh no. Qui è là, io amo la libertà. Mi piace andare così, senza freni vado e vivo così, yeah. Qui e là io amo la libertà. Sfumata così la nostra Patti Bravo, che probabilmente questi prossimi episodi si verrà anche a tornare in trasmissione. Bravi ragazzi, sì. Verrà probabilmente a trovarci la trasmissione, così bravo. Che non si sa cosa le è successo, ma probabilmente ha completamente perso. Non si sa. L'uso. Non lo voglio sapere. Io un paio di decimi. Tanto bella, tanto brava, ma non bella. Lo voglio sapere. Avevamo tante altre cose da dirvi, soprattutto sul fatto che siamo i soliti somari, noi italiani, quindi i fonemi non esistenti nella lingua italiana che provengono da lingue straniere, no? Quindi come si adattano. Però sono le 20:35. Che bello. Che peccato, sono come le 20:35. Il TH dell'inglese, vogliamo parlarne? No! La parola bonjour, garage. No! Hello! No! Beh, diciamo oggi è andata un po' così. Abbiamo iniziato in ritardo, non possiamo sforare troppo perché altrimenti chi arriva dopo di noi fa mezzanotte. E c'è un'autodate che in genere ha dei, quindi anche no. Ha dei contenuti, povero un'autodate. No, ma siamo no, non va bene questa cosa. No. Noi siamo passati a povero un'autodate. Stiamo scherzando. No, maledetto. Maledetto, ce l'ha fatta. E quindi vi lasciamo così. Vi lasciamo così, vi ricordiamo. Sabato c'è appunto al Next Emerson, non mi ricordo in che via è, via di Bellagio. Via di Bellagio, sì. E c'è appunto la pericena. Ah! Dalle 19. Ah! Pericena. Ah! Aperitivo del Wombat. Esatto, l'aperitivo del Wombat. È la nostra prima uscita vera e propria, sì. Danzereccia per intenderci, esatto, no? Dalle 19 alle 23. Dopodiché la DJ set si concluderà per dare spazio al concerto dei Nuovi Rumori. Esatto. All'interno di questo concerto del collettivo Nuovi Rumori ci sono un sacco di gruppi fighissimi. Andatelo a vedere nel sito Wombat, nel sito dell'Emerson sicuramente, nel sito nella pagina Facebook dei Nuovi Rumori. Esatto. E poi insomma un pochino arrangiatevi anche voi con le informazioni, fate sì. Qualcosa di urgente da dichiarare in agenda prima di sabato? C'è qualcosa domani di velocissimo da dire? No, nulla. Ok, abbiamo perché non ci siamo organizzate nulla bene con l'agenda. Tra l'altro, ecco, sabato questa una cosa settimana. Adesso prendo l'agenda, ci sono i Morcobot, appunto, sì, per sì, cui sì, è, un sì, è uno dei gruppi, sì, infatti. È un gruppone, ce ne sono altri due, ma il Collapse. Sì, un po', c'è un bel po' di roba in realtà, sarà una bella serata. Insomma. Dai, venite dalle 7, mangiate bene, ascoltate buona musica, esatto. Si farà qualche sketch divertente. Esatto, vi interrogheremo soprattutto sulle parole sul palinsesto anche. Io e Nenia e Nina vi interrogheranno sul palinsesto di Radio Guarda. Metteremo musica a turno, quindi avrete modo di ascoltare tutti i generi, dal divertente al serio, al professional, al drammatico, alle cazzate che mettiamo generalmente noi. Esatto. Quindi sarete i benvenuti, a noi farebbe un sacco piacere vedervi tutti. Venite, e allora, venite, correte numerosi. E allora ciao, ciao, vi aspettiamo un giovedì. E vi vogliamo bene. Esatto, ciao. Ma soprattutto a sabato. Tanto chiudiamo affetto. Con il pezzo serio. Ciao. Ciao. Scusate, attenzione, questa proprio attenzione. Non me la potevo dimenticare, ma c'è una serata fantastica domani. Siamo terribili. No, meno male, mi è stato ricordato via ZMZ. Domani c'è una serata fantastica del collettivo dei Breakers del Next Emerson. Una serata bella, ganza, perché... sto temporeggiando perché sto cercando le informazioni. Comunque una serata di Breakers. Però sì, è un collettivo interessante. Ci saranno degli ospiti, si balla. Non si mangia, perché i Breakers non possono ballare a stomaco pieno. No, infatti, però ci sarà magari qualche patatina, qualche cosa. Vi dico di più. Certo, qualcuno, visto che mi è stata data la notizia, mi potevano anche mandare il link. Comunque, so solo che sono persone molto carine, molto professional, dei ballerini eccezionali. Eccoli, li ho trovati. L'Exchange Jam. È una di quelle cose che non riesco più a pronunciare. Exchange Jam. Domani, allora, abbiamo un inizio alle ore 21. Ci sono vari personaggi, tra cui i super ospiti amici norvegesi, che sono le special guest. Wow, sì. Accidenti, roba seria, ragazzi. Sì, infatti. E i vari locali, ora, ecco, infatti mi mandano anche i messaggi con le grandi risate, i vari componenti locali. Basta, non posso aggiungere altro, non sono quindi più in grado, venerdì e sabato necessario, però è una bellissima serata. Ho assistito ad altre serate che fa questo collettivo e veramente sono in gamba, spaccano. Quindi... sono in gamba perché ballano. No, è vero, sono grandi, sono veramente professional. Venite a vederla dalle ore 21 domani al Next Emerson, sempre via di Bellagio. E sabato la pericena. Vi ridiamo il vostro pezzo musicale. Ciao ragazzi. Ciao. What's up?